fra la cartaccia o peggio che ci viene elargita oggidì dai giornali quotidiani, per iniziativa del Corriere della Sera ce n'è finita una che è all'insegna del come era bello e drammatico il secolo che abbiamo appena lasciato, replica la carta del giornale medesimo. Cioè le prime pagine che il giornale ha dedicato a degli avvenimenti che per ciò stesso diventano esemplari, altamente significativi, avvenimenti da collezionare nella versione della stampa di regime, selezionati con l'amorosa avvertenza di trascurare quelli della cui versione la medesima stampa avrebbe da vergognarsi. Non ci troveremo dunque quella prima pagina del Corriere in cui Craxi annunciava che l'era della droga era finita, e neppure altre più gravi del periodo fascista e del periodo dell'occupazione nazista. Ma in compenso riavremo fra le mani la pagina che festeggiava il crollo del muro di Berlino, o quella che, come di un moderno mito faustiano, celebrava il primo trapianto cardiaco ad opera del salottiero chirurgo sudafricano Barnard. Vabbè, queste prime pagine vengono offerte alle debolezze collezionistiche del lettore smemorato per un fatto singolo, per il fatto, quello che nei titoloni e negli articoli di contorno viene enfatizzato al punto di ricevere la configurazione più opportuna per entrare nella storia che ci vogliono somministrare. Tuttavia, non sempre queste pagine si esauriscono nell'evento, e qualche centimetruccio quadrato di carta deve sopportare la stampa di testi relativi a eventucci, a quisquiglie, a cronachette da dimenticatoio, che spesso al rinnovato contatto con i grandi eventi della storia rivelano di più sui protagonisti del momento di quanto rivelino i grandi eventi stessi. Ne scovo uno di questi riempitivi ideologici che, narrando del portinaio romano Angelo Roncaccia, disegna più ampiamente un quadro dei disturbati a sfondo religioso, diciamo, dei restituiti più che al territorio, come si direbbe oggi, dei restituiti al cielo. Siamo nell'immediato dopoguerra, c'è il reduce dalla prigionia nei Balcani che arriva scalzo alle porte del Vaticano e chiede di poter parlare urgentemente al Papa per riferirgli quanto gli ha comunicato Gesù in persona. C'è la signora di Belluno che durante una visione aveva ricevuto in dono la data della fine della guerra, data che poi si era rivelata esatta, e voleva ora svelare al Papa gli altri oscuri presagi di cui era a conoscenza, ma vittima dell'incredulità e del materialismo dilagante era finita invece al commissariato, dove peraltro questa signora di Belluno ebbe la possibilità di incontrare uno sfollato leccese che una notte, camminando nei dintorni di Cinecittà, si era sentito prendere per un braccio e una voce gli aveva detto: io sono il martire dei martiri, Giacomo Matteotti, torna indietro, vai dal Papa, vai dal Presidente del Consiglio Parri e di loro che... il testo del messaggio non lo poteva certo rivelare ai primi venuti, e da ciò la signora bellunese ivi presente trasse sufficienti motivi per dichiarare alla stampa che a suo avviso si trattava di uno squilibrato. E c'è, oltre a queste storie, c'è la considerazione critica sul rapporto tra periodo bellico, drammi, difficoltà e in difetto delle aziende energetiche, illuminazione mistica delle menti. C'è anche, per l'appunto, la storia di Angelo Roncaccio, il portinaio di via Monserrato 119, di cui i giornali tornavano periodicamente ad occuparsi. Roncaccio è descritto come un brav'uomo sulla settantina, già dimesso un paio di volte dal manicomio, da una decina d'anni dice di essere posseduto da Dio, ha prescienza del futuro, soffre peraltro di qualche piccolo movimento fisico involontario. Lui è per il cristianesimo primitivo, ricorda tutti i 10 comandamenti ed è un convinto assertore di quella tesi mai del tutto estinta che le malattie siano figlie essenzialmente del peccato. Ai pentiti, tuttavia, impone le mani e li guarisce da cancro e tubercolosi, si circonda di apostoli e impartisce benedizioni con una miscela dell'acqua attinta in 7 basiliche romane diverse. Tuttavia l'unica bizzarria teologica, l'unica bizzarria cui è affezionato riguarda 4 apostoli del nucleo storico, diciamo dello zoccolo duro, che reincarnatisi, sì, agirebbero nel mondo avendo tuttavia nel frattempo cambiato sesso. Anche qui, anche nel caso del portinaio Roncaccia, si dovrà notare come i risultati della vista non siano mai scevri di un buon carico di teoria. Fa niente se questa teoria non è consapevolmente ordita e vissuta. Roncaccia, in un momento di sfollati e di case distrutte, Gesù lo vede, come in un presagio di televisione alla buona, lo vede nella mattonella della cucina. Nell'elemento simbolicamente più cospicuo dei bisogni fondamentali da soddisfare in quel preciso momento. Un rifugio dove abitare e dove almeno una volta al giorno mangiarci qualcosa. Il portinaio Roncaccia dalla sua umile guardiola dava anche là ad una storia che non accenna a volgere al termine. Mattone e salvezza. Della coscienza, del conto in banca, della fiducia nel futuro, hanno continuato ad affermarsi come un binomio di successo, dai Palazzinari a Radio Popolare. Non indifferente è il giorno in cui il portinaio taumaturgo è stato sbattuto in prima pagina. Titolo: la bomba atomica ha polverizzato tutti gli esseri viventi a Hiroshima. Era il giorno dopo di Hiroshima. Alla coscienza politica collettiva il regime offriva di barattare il rifiuto con la fiducia. Non si era badato ai mezzi da una parte e non si è badato ai mezzi dall'altra.